Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Parla con tutte e due. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? La nostra cellulite pende dalle sue labbra. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E la mia non è propaganda, amici. La mia non è propaganda, è un'osservazione della realtà, no? Che fai? Me l'ha data Maurizio Crozza. Ho detto: che consiglio mi dai? Portati l'acqua. Ciao, Maurizio. E voi vi portate l'acqua? Bevete solo quando avete sete o bevete indipendentemente dallo stimolo che avvertite? Sapreste dirmi, in media, quanta acqua bevete nel corso di una giornata? Di queste giornate che sono particolarmente calde. Intanto provate a pensarci, quantifichiamo i bicchieri, se preferite andiamo a bottiglie e bottigliette, ma aggiungiamo anche un altro dettaglio. Cerchiamo di capire se e in quale momento della giornata beviamo di più, al mattino, dopo pranzo, ai pasti, verso sera. 800 24 00 24. Sai chi è l'uomo di cuore e denari oggi? No, non guardare al tuo, alla tua destra. Ce n'è un altro che possiamo definire tale. Non è qua, è un convitato di pietra. È Mario Draghi. Però. Hai capito? E sai perché? Perché il tema dell'idratazione si sposa molto bene anche in ambito finanziario. Dopo il GR delle 12 volteremo pagina, ma in un certo senso continueremo a parlare di liquidi e di idratazione, o meglio, la parola giusta nel gergo finanziario è liquidità. Non si parla di acqua naturalmente, ma di denari che vengono iniettati dalla Banca Centrale Europea con l'obiettivo di rilanciare l'economia. Vedremo come mai queste misure, che sono state adottate e comunicate al mercato giovedì scorso e che sembrano così lontane da noi, hanno invece un impatto anche molto concreto nella vita di tutti, in particolare per chi vuole chiedere un prestito o un finanziamento o un mutuo, o ad esempio per chi vuole investire i suoi risparmi. Io stavo cercando te, tu sei il contabile! Sì, gliel'ho appena detto, sì. Tu te ne intendi di conti? Di bilanci, sì? Eh beh, certo, è il mio mestiere e non per dire sono anche parecchio bravo, sì. Perfetto! Io arrivo alla fine del mese e ho speso più di quello che ho guadagnato. Mi devi fare una tabella dove ci scrivi su quello che ho speso e quello che ho guadagnato. E proviamo anche noi allora a fare un bilancio delle entrate e delle uscite, di quanto beviamo e di quanto eliminiamo. L'acqua per noi è indispensabile, non esiste una parte di noi, del nostro organismo, che può farne a meno. Se il nostro organismo è una macchina, l'acqua per certi versi è un po' come il cibo, è la sua benzina. Qua in studio con noi abbiamo il nostro uomo di oggi di cuore, certo, denari, perché non è che prima non volessi anche come dire, definire lui tale. Però, Draghi è Draghi. Buongiorno, dottor Speciani, cioè, non me ne voglia, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano. Buongiorno. Buongiorno, allora parlo da draghetto in questo caso. Esatto. No, è proprio tra l'altro il personaggio giusto, visto che parliamo di acqua. Io voglio essere un pompiere, ve lo ricordate, sì, no Grisù? Sì, assolutamente. Il concetto di liquidità che adesso Deborah ha toccato, secondo me è l'elemento cardine per capire l'acqua, perché tutti più o meno vanno sull'enciclopedia e dicono sì, l'acqua serve perché idrata, perché migliora. In realtà l'acqua è l'elemento indispensabile per far funzionare qualsiasi elemento dell'organismo, cioè noi non abbiamo reazioni a secco. Uno fa quando fa i suoi libri di scienze, no? Puoi mischiare un po' di carbonato di calcio con qualcosa eccetera, scoppia. Quelli che giocano al piccolo chimico fanno sempre scoppiare qualcosa in casa quando sono piccoli, no? Per la prima volta. Vuol dire che ci ha giocato? Sì, ci ho giocato, c'era una camera completamente tappezzata di puntini verdi, a causa mia ovviamente, e ricordo sia il prima che il dopo, che non è stato semplice, va bene. Però la cosa fondamentale è che l'acqua consente lo svolgersi di tutte le reazioni, c'è una regolazione, una finezza, è lo stesso della liquidità, cioè finché tu non hai anche la possibilità di gestire questo elemento, in realtà molte delle cose che potresti fare non le puoi fare. Quindi intanto abbiamo un liquido che sanno che non dobbiamo inquinare e che di per sé non inquina quando è puro e fatto bene, ha questa azione che consente di disintossicarsi, di ripulirsi, di gestirsi l'ammortizzazione. Pensiamo alle nostre articolazioni, no? Per cui noi in realtà stiamo camminando, stiamo seduti in questo momento su tre seggiole comode, devo dire, però se fossero scomode le sentiremmo solo dopo un po', grazie al fatto che abbiamo dei cuscinetti di acqua nelle nostre articolazioni che funzionano e che vengono mantenuti e cambiati sistematicamente. La cosa fondamentale, e mi piace dirlo, proviamo a pensare ad una carezza. Immaginiamo di dare una carezza a noi stessi o alla persona cara o chi vuole e trovare una pelle secca, invizzita e rugosa. L'effetto è immediato e la carenza d'acqua non è che la deve vedere solo il medico, la possiamo sentire anche noi. E quindi questi sono gli elementi che ci fanno capire l'importanza sul piano generale, sul piano gestionale. Si stanno carezzando tutti qua adesso, vedo esatto. Anche in regia, no. Stanno provando. Stavo pensando che non appena arrivato il dottore ci ha dato un bel bacio, ovviamente, certo. Come certo. Ci meritiamo, quindi che sensazioni ha avuto? Era estremamente positiva. Eravamo estremamente, a vizio, estremamente ben positiva. Idratate. Pinocchio. Quindi... Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Naturale minerale del rubinetto, a temperatura ambiente più fredda, da bere a piccoli sorsi, con l'aggiunta di erbe in forma di tisana. Sciogliamo gli indugi, non aspettiamo di avere sete per bere, ma idratiamoci e spaziamo il campo da dubbi e luoghi comuni sull'acqua. Siete pronti? Dottor Speciani è pronto? Prontissimo. Allora andiamo. Meglio bere lontano o durante i pasti? Entrambi, dipende dalla quantità, nel senso che per quantità umane si può bere qualunque momento della giornata. Se le quantità sono disumane, perché a volte capita che la gente beva 3 litri insieme, è meglio lontano dai pasti. Il tè e il caffè hanno un potere idratante o solo eccitante? Non hanno un potere idratante, hanno un potere antiossidante, sono due sostanze fantastiche, ma il fatto di poter bere dell'acqua legata al tè o al caffè ovviamente porta anche a questo tipo di azione. Sono degli stimolanti neuronali, non sono proprio degli eccitanti veri e propri, però portano dell'acqua insieme. Le bevande gasate aumentano nei soggetti predisposti il gonfio addominale? La mia risposta è no. Nel senso che io sono un fautore anche dell'acqua gasata, che piace, in più c'è anche una garanzia che non sia stata utilizzata, manipolata da altri, perché se la trovi bella gasata vuol dire che la bottiglia è rimasta chiusa, che è una garanzia di sicurezza non inutile. Le persone predisposte hanno fastidio dall'acqua gasata, hanno fastidio dal pezzettino di pane, dal pezzettino di, da tutte le cose possibili e immaginabili. Abbiamo degli sistemi nell'organismo per risolvere tutti i gas che mettiamo dentro, e quindi se uno è irritato di pancia è meglio che non la beva, se no beva tranquillamente l'acqua che gli piace. Qual è la temperatura ottimale dei liquidi per una buona idratazione? Io dico che avete mai bevuto ad un ruscello? Dai 4-6 gradi, normalmente in montagna buonissimo, quindi dai 4-6 gradi fino ai 20, però ho degli amici che bevono acqua bollente anziché bere il tè, si portano a casa in tavola l'acqua bollente, stanno benissimo, sono sani e sono piacevoli, quindi qui entra in gioco il gusto. Diciamo che l'idratazione, quando è a temperatura accettabile dal corpo, va benissimo. Si beve anche mangiando, ma qual è la percentuale di acqua che si assume con la dieta? Tra l'altro è un'acqua importantissima, questa è l'acqua metabolica. Proviamo a capire quanto. Ad esempio, se io mangio 100 grammi di una mela, introduco 85 grammi di acqua. Se mangio 100 grammi di spinaci, introduco 91,4 grammi di acqua, che sono acque fantastiche che uno deve mettere in conteggio, e che è un'acqua utile. Addirittura ci sono alcune forme di terapia in cui si chiede di non bere acqua, ma di mangiare solo l'acqua metabolica che c'è dentro, quindi negli alimenti, nella frutta, nella verdura. E quindi con la dieta, se siamo sensati e mangiamo frutta e verdura, ne possiamo introdurre abbastanza. Chi pratica sport, dottor Speciani, deve utilizzare bevande a base di potassio e magnesio per reintegrare i sali, o è sufficiente idratarsi bevendo e mangiando? Ma diciamo che in condizioni d'uso, come vuol dire non mentre stiamo facendo una maratona, quindi 42 chilometri da percorrere, ma stiamo facendo una corsa, stiamo facendo un'attività fisica, fisica, l'acqua è fondamentale. Acqua, acqua, acqua. Dopodiché abbiamo, anche perché è una cosa tragica, lo posso dire, che spessissimo tutte le bevande da sport sono addizionate di zucchero, che preso durante l'attività può creare dei problemi. Alla fine può essere estremamente utile. Un'aggiunta di potassio e magnesio ci sta bene, devo dire che io poi, lo diremo anche più avanti, sono sicuro, avrò modo di raccontare che albicocche, pesche, patate sono elementi per apportare magnesio e potassio naturali in modo ancora più simpatico. Dottor Speciani, alla fine di questa sorta di rischi a tutto in cui ho vinto, come è andato il mio punteggio? Cosa è successo? Beh, è andata bene, ottimo, sì, ha preso 10 e ho pensato alle ciliegie che ho mangiato questo weekend, a proposito, perché erano belle. Ho vinto io, pazienza. Allora, abbiamo subito Milena da Catania, 800 24 00 24. Benvenuta Milena. Sì, buongiorno. Fa caldo, Sì, fa abbastanza, quasi 30 gradi. Io non so, io devo dire bevo pochissimo. Un bicchiere e due bicchieri. Riesco anzi a bere forse la mattina una tisana. E quindi non so se questo crea dei problemi. Diciamo sì, che bevo molta acqua metabolica. Forse diciamo riesco a mangiare della roba abbastanza brodosa, frutta, quindi questo riesco. Però come non riesco a bere, perché non ho un senso di nausea bevendo. Invece durante i pasti, quando c'è molto caldo ogni tanto vabbè, riesco a bere. Però bevo poco. Però Milena ha detto bevo molta acqua metabolica. Ha imparato subito, bravissima. Catturato l'immagine e la parola, brava Milena. Quindi direi che no, va bene, nel senso che se in un'alimentazione complessiva l'acqua che uno introduce attraverso brodi, minestre e cose di questo genere, frutta e verdura, è elevata, può essere che l'organismo non manifesti il proprio segnale di voglia di bere, quindi la necessità di introdurre ulteriore acqua. Distinto le posso dire che viviamo, non so se se ne è accorta, viviamo in un mondo un po' inquinatino e quindi il fatto di mantenere un po' più stimolati i nostri sistemi difensivi, come quello dell'acqua per l'appunto, soprattutto se sento da dove chiama? Catania, quindi una regione che il caldo lo sente direi abbastanza. Ho la sensazione che stare preparati, quindi avere dalla propria la possibilità di disintossicarsi, di ripulirsi, di mantenere anche il filtraggio renale potenzialmente stimolato è utile. Arrivano molti messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che ci scrivono: bevo un litro e mezzo, bevo due litri, mio figlio oddio ne beve tre, è troppo poco. Allora, proviamo dottor Speciani a dare delle indicazioni, come facciamo a capire se siamo idratati correttamente? La carezza di prima è un elemento utile, cioè sentire la pelle, quindi una pelle che non è secca e vizza o rugosa fondamentalmente, è un dato importante. Dopodiché il fatto di avere delle pipì abbastanza chiare, cioè di sapere di poter non avere delle iperconcentrazioni. Intanto vedo le persone che arrivano con gli esami e hanno il peso specifico delle urine 1030, 1032, 1029 e gli dico: lei beve poco, come fa a scoprirlo? Perché gli dico perché anziché pipì, la sua pipì sembrano dei cubetti di urina che rotolano giù per l'organismo, no? E allora realizzano di fatto ecco, questi eccessi non servono, quindi avere un'immagine come ciascuno, voglio dire, guidiamo in macchina, cambiamo, acceleriamo quando c'è la curva, impariamo a capire che se non stiamo facendo pipì, che non c'è l'urina abbastanza chiara, è meglio che beviamo di più, cioè ce lo dice il corpo in relazione alle singole esigenze. Che poi ogni persona abbia un litro e mezzo o tre litri in normalità va bene, cioè può essere variabile e tranquilla. Margherita Serafini, quarto banco, fila centrale. Ah, Postiglione, come stai? Carissima, carissima. Ma che hai fatto, il bagno? No, solo sudore. Ma la sudorazione, come tu mi insegni, non è provocata soltanto da agenti termici, ma anche da fattori emozionali. Ci sono persone che hanno paura di idratarsi troppo perché temono gli effetti collaterali dei quali si parlava in questo brano di questo film, andare spesso in bagno o sudare eccessivamente. Dottor Speciani, che dal punto di vista della vita sociale magari non è il massimo, però... Ma devo dire, il tema della sudorazione è che quando uno è bagnato di sudore non è un fenomeno fisiologico. Cioè, la cosa fantastica davvero è che se uno sta in una lievissima corrente d'aria, ventilato, e inizia, si chiama perspirazione insensibile, se noi buttiamo fuori un mucchio di liquidi, grazie al cielo, attraverso proprio il vapore che esce. Quando iniziamo a sudare, blocchiamo questo meccanismo. Quindi in realtà il fatto di avere il sudore addosso vuol dire che abbiamo superato il livello di emissione di liquidi favorevole dal punto di vista termodinamico, e quindi lo guardiamo con un minimo di attenzione. E ne vogliamo parlare con il professor Marcello Monti, che è professore di dermatologia all'Università di Milano, all'Istituto Clinico Humanitas. Professore, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno. Professore, la sudorazione è un fenomeno fisiologico, no? Perché serve a mantenere la temperatura corporea stabile ed è un meccanismo che è regolato da quel sistema nervoso autonomo, più precisamente dal sistema simpatico. Come anticipava anche il dottor Speciani, il problema è che talvolta la sudorazione diventa eccessiva e questo crea imbarazzo, e poi comincia quel circolo vizioso per cui più abbiamo paura di sudare, più ci viene, no? La paura è come quando sappiamo di arrossire, ci concentriamo e diventiamo ancora più rosse, quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Professor Monti, che cosa si può fare? Ci sono tanti rimedi, forse non nessuno è la cura definitiva, perché se la sudorazione non è una malattia immagino non ci siano terapie, ma esatto, da che cosa? Non ci sono proprio terapie definitive che possono chiudere questo problema della pelle. L'ipersudorazione emozionale purtroppo ci viene, ci sono alcuni soggetti che quasi ci nascono e se la portano avanti per tanti tanti anni. Quello che si può fare è su due fronti: uno, sì, quello appunto emotivo, cercare di ricondizionare il soggetto a non sudare o comunque non trasferire tutte le emozioni in sudore. E questo è un compito dello psicologo, di chi si intende queste cose. Poi c'è il compito dei medici, che è quello di cercare di intanto frenare la sudorazione. Questo si fa ancora oggi usando i sali di alluminio, il cloro d'alluminio, che è un buon antitraspirante e ci aiuta molto, per esempio nei cavi ascellari, ma anche sulle mani o sui piedi. L'applicazione di questi gel, che vengono chiamati gel astringenti, appunto a base di cloro d'alluminio, possono aiutare il soggetto che suda troppo. E poi, quando le cose non bastano, bisogna ricorrere a metodi certamente più drastici, come per esempio la iniezione sottocutanea di botulino, la tossina del botulino, paralizzando i nervi che danno quel sistema simpatico che dà origine alla sudorazione, certamente per un certo periodo di tempo blocca la sudorazione. Però il botulino non è simpatico, perché fare iniezioni al palmo delle mani, alle ascelle o alle piante del piede è molto doloroso, e poi anche i risultati sono troppo brevi nel tempo, a volte già dopo un mese, due mesi ricomincia la sudorazione. E infine, quindi, quando il soggetto è disperato, si può ricorrere anche alla chirurgia. Oggi la chirurgia è molto avanzata in questo campo. Praticamente si va a togliere, a bloccare un ganglio nervoso, i gangli nervosi che vanno a distribuire questi segnali alle ghiandole sudorali. Di solito sono nel torace questi gangli. Una volta si tagliavano e quindi era una specie di danno permanente, adesso invece si possono clippare, mettergli una specie di molletta sopra, in modo che nel tempo poi questa molletta può essere rimossa, tolta e lasciare le cose come stanno. Professore, però è un intervento che possiamo dire l'ultima spiaggia, proprio l'atollo, quello in fondo. Alle Maldive. Che dice? Assolutamente, anche perché poi i risultati non sono uniformi, spesso non soddisfano il paziente, quindi... faccio un esempio: smette di sudorare alle braccia, inizia a sudorare magari in mezzo al petto, quindi non cambia molto il danno, perché chiudendo un canale se ne può aprire poi un altro. Esattamente. Professore, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buonissima giornata. Grazie molto a tutti, grazie, arrivederci. Tanti sms stiamo leggendo. Intanto salutiamo Stefano che ci dice: mi avete fatto venire sete, il prossimo autogrill mi fermo. Per cui con questo giusto, caldo. Poveretto, chissà in che tratto stradale o autostradale è. Ancora alcuni ascoltatori che chiedono che cosa si deve fare dopo l'attività sportiva, anche se qualche indicazione l'abbiamo già data. Torneremo naturalmente. Esatto, chi ci chiede se il famoso bicchiere d'acqua calda e limone al mattino è sempre utile da prendere ai fini dell'idratazione, dottor Speciani. Acqua fresca, tiepida, fredda, calda, come ognuno ha la preferenza. L'acqua al mattino è una cosa ottima. E Antonio da Ravenna che dice: bere troppo, l'unico caso in cui ho sentito che bere troppo fa male è in caso di annegamento. Andiamo a Elisa che ci chiama da Verona. Elisa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, a tutti voi. Io potrei vivere senza bere. No, sto esagerando naturalmente. Fa un po' il paio con la nostra amica di Catania. Non sente la necessità, non avverte mai la sete. No, non avverto, ma io bevo perché devo bere, quindi ho la bottiglia in macchina, in ufficio, eccetera. E sempre con qualcosa, mai acqua. L'acqua mi è indigesta. Dottor Speciani, se ne sentono delle belle. Fa parte della normalità, arrivano le persone con le indicazioni più particolari. Basta pensare a quelli che ricordano la propria famiglia, qualcuno che aveva problemi idraulici, chiamiamoli, quindi voleva sempre far pipì o aveva dei problemi, pannoloni e simili. E spesso queste cose nei bambini generano una sorta di timore dell'acqua. Poi ci sono persone che hanno in realtà degli stati infiammatori, irritativi o comunque delle non digestioni. Questa è una delle cose più importanti. Pensiamo che c'è una popolazione che erano gli operai che lavoravano nelle fonderie, che arrivavano a bere, quindi a contatto con temperature elevatissime, anche 12-16 litri d'acqua al giorno. E uno diceva: cosa succede con 16 litri? Per cui dovevano utilizzare insieme delle gocce di acido cloridrico, che sono le stesse gocce, praticamente l'acido cloridrico è lo stesso che c'è nello stomaco. In questo modo, semplicemente acidificando, quindi lei può fare un po' di limone, Elisa, che senza usare acido cloridrico, però già dell'acqua e limone ha un'azione positiva. Spessissimo le persone che trovano indigesta l'acqua sono persone che non stanno digerendo anche altro, quindi è un segnale che magari, visto in termini medici generali, può aiutare. Poi, se vogliamo entrare nello psicologico, a volte c'è un bel discorso, una lettura si può dare, ovviamente non si può fare per telefono e conoscendo, però è vero che il rapporto con l'acqua o col sole spesso hanno dei simbolismi importanti che vanno tenuti in considerazione. Per intanto partiamo con un po' di acqua e limone. Intanto i mercati, e noi poi continueremo a fare i nostri bilanci. Parleremo anche di ritenzione idrica, quando l'acqua che beviamo abbiamo l'impressione che invece che prendere la via giusta venga trattenuta. Si ferma tutta lì a fare i cuscinetti. E denari. ECB interest rates. I tassi di interesse rimarranno a livello attuale per un prolungato periodo di tempo alla luce dell'attuale scenario per l'inflazione. In view of the current... Se necessario, la BCE è pronta a decidere velocemente un ulteriore allentamento monetario. Il Consiglio è unanime nell'impegno di usare anche strumenti non convenzionali se dovesse diventare necessario affrontare i rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione. Ed eccolo qui il nostro Mario Draghi, nostro per modo di dire, perché insomma uno degli italiani più famosi al mondo in questo momento, nell'intervento, una parte dell'intervento di giovedì scorso al termine del direttivo della Banca Centrale Europea. Uno dei passaggi della sua conferenza stampa attorno a queste dichiarazioni ruota il senso delle misure straordinarie che sono state comunicate al mercato giovedì e di cui parleremo oggi a partire dalle 12, misure straordinarie della Banca Centrale Europea che si legano però all'ordinario di tutti noi, alla nostra vita quotidiana, e perché ve lo racconteremo con l'ospite che ci raggiungerà dopo il giornale radio fra mezz'ora. Intanto però vi faccio questa domanda: state pensando di chiedere un prestito alla banca, un mutuo per la casa? Ci avete già provato? Prima di giovedì chiamateci all'800 24 00 24, diteci cosa vi ha risposto la vostra banca o proposto. Vi spiegheremo perché chiederlo oggi può essere diverso da averlo fatto 2 settimane fa. bere senza sete e far l'amore in ogni tempo sono le uniche cose che ci distinguono dagli altri animali. Pierre Augustin Caron de Beaumarchais. L'abbiamo anche postato sulla nostra pagina Facebook, dottor Speciani, però fermiamoci alla prima parte della bere senza sete, fare l'amore in ogni tempo. Potremmo discuterne a lungo, dopo, sì, un'altra puntata, dopo. In un'altra puntata, in un orario più congeniale. Dottor Speciani, noi beviamo, ma a volte abbiamo la sensazione che il nostro corpo non elimini l'acqua in modo corretto, come se in qualche modo la trattenesse. Sospetto che ci viene quando al mattino non riusciamo ad infilare l'anello, quando ci sentiamo le gambe gonfie, pesanti, le caviglie in modo particolare, o quando non riusciamo a chiudere la gonna anche se l'ago della bilancia non si è spostato. E l'idea che il gonfiore o la tensione siano causati dall'acqua che ha sbagliato strada invece che uscire si è fermata, ci viene. Allora, quest'acqua che viene in qualche modo trattenuta, come si fa a eliminarla? È un problema di alimentazione? Abbiamo mangiato troppo sale? Abbiamo bevuto troppo poco? Che cosa succede? È una domanda interessantissima, perché indubbiamente abbiamo delle particolari situazioni, penso a persone con delle patologie renali piuttosto che altro, in cui questo trattenimento di liquidi è proprio legato alla incapacità dell'organismo di poter eliminare, di far funzionare correttamente. Devo dire che queste sono persone che però si riconoscono, sono ben identificabili, sono per fortuna molto rare, mentre le persone che si lamentano di caviglie gonfie, di gambe più paffute del normale, di idratazione eccessiva, di anelli che non che escono, non come entrano, si diceva, in realtà sono veramente tante, e questo esprime una doppia situazione. Uno, direi, legato a proprio al tipo di alimenti che vengono utilizzati. È ovvio che è un'alimentazione molto ricca di sale, non tanto di sale che viene aggiunto, ma quanto dei cibi che ne contengono in misura notevole, in modo spontaneo, può trattenere liquidi, e quindi è come se il corpo cercasse di diluire la presenza di sale nell'organismo. In quel caso bastano alcuni atteggiamenti alimentari. La cosa che invece è più importante oggi e che si sta manifestando in maniera decisamente più rilevante anche sul piano quantitativo è proprio del fatto che esiste un'infiammazione diffusa nell'organismo legata a temi che possono anche essere misurati, e l'organismo risponde buttando liquidi per diluire la concentrazione elevata di sostanze infiammatorie che ha all'interno. Questo rientra proprio in una situazione ben più ampia e che merita poi di essere conosciuta. La cosa bella che si può valutare è di quando le persone capiscono che gli strumenti per risolvere questa tematica sono semplici e sono a portata di tutti, e quando uno capisce che il proprio organismo sta rifunzionando, a parte la bellezza, io lo chiamo il self-empowerment, cioè finalmente uno crede che la propria storia sia legata ad avere sfortuna o di non riuscire a risolversi, invece di nuovo uno si sente potente e capace di poter fare del bene a se stesso. Questo è un dato estremamente positivo. Sì, no, posso dire, stavo leggendo il caso di questo ascoltatore, Sorin, credo sia un nome maschile, da Brescia, che ci racconta che beve 2-3 litri di acqua al giorno, a parte le varie insalate e la frutta che naturalmente mangia. Mi suda solo la testa e la faccia mi diventa color viola, poverino, perché specifico che il sudore scende come un rubinetto che gocciola. È un problema legato ad un malfunzionamento del sistema regolatorio? Che impressione ha, dottore? Ma è come diceva prima il professor Monti, quando segnalava che noi abbiamo canali comunicanti all'interno dell'organismo. Ad esempio, nella lettura classica, il bambino piccolo, il neonato, che suda prevalentemente in testa, è spesso un bambino con dei problemi digestivi nei confronti del latte e dei latticini. Veramente? Fino sì, a questo, che mesi? Ma questo si vede nei problemi dell'allattamento, all'inizio. Uno dice: il bambino è caldo, suda, no? Suda dappertutto. Il bambino che suda prevalentemente in testa, proprio sul cuoio capelluto, classicamente un bambino è uno dei segnali che ti fa pensare, poi ovviamente va confrontato con la realtà clinica, però ti fa pensare ad una sudorazione che sia legata ad un problema metabolico specifico legato ai latticini. Quindi per dire, io ad noi esempio, non siamo più neonate, no, io, no, però io che sono vecchietto con i miei quasi 60 anni dico che conosco le mie reattività, ad esempio di intolleranza ai lieviti, e so perfettamente che quando bevo del vino o supero un certo livello di assunzione di prodotti fermentati, pane, formaggio, ho delle zone del corpo specifiche che sudano. Io so, durante la notte mi sveglio trovandomi sudato, normalmente invece non sudo, se non quando faccio attività fisica, e dico: ah già, è vero. Quindi perché ieri sera... sudorazione eccessiva potrebbe essere legata, dottor Speciani, anche a delle intolleranze? Sì, sicuramente. Devo dire, ci sono proprio anche aree, man mano poi si sentono le persone e si coglie nei racconti, riuscendo a leggere la realtà clinica da quello che le persone ti raccontano, queste cose poi alla fine sono evidenti. Se ascoltiamo le persone che raccontano le loro storie, vengono dei dati che ci aiutano a capire come davvero ognuno ha una sua individualità, ma poi tutto sommato siamo tutti uomini e donne, abbiamo tutti gli stessi cromosomi e così via. Stiamo parlando di sudorazione, è arrivato subito il messaggio di una mamma che vuole avere delle indicazioni sulla quantità di acqua da dare al neonato e poi vuole sapere come si può riconoscere la disidratazione in un bambino così piccolo, perché il suo bambino ha 2 mesi. E noi poi parliamo di sudore, di disidratazione, ma parleremo anche di ritenzione idrica e la famosa cellulite, perché noi donne, ritenzione idrica vuol dire pancia gonfia e cellulite. Ma rispondendo alla mamma? Il bambino di 2 mesi, nel momento in cui asseconda attraverso l'allattamento fisiologico il senso della sete e della fame, non ha necessità particolari. Bisogna capire, soprattutto in una situazione come quella ambientale di oggi, dove fa molto caldo, che il bambino non perda liquidi attraverso quella che chiamavo prima la perspirazione, la perspirazione insensibili. Quindi direi che una delle indicazioni è di essere pronti a riconoscere i segnali di aiuto. Il bambino chiama, ovviamente l'unica cosa che può fare è, non avendo un campanellino o un maggiordomo che lo assista, risponde piangendo, e interpretare che il bambino potrebbe avere semplicemente sete, e quindi predisporre delle tetarelle, dei biberon, anche semplicemente con un minimo di acqua con un po' di infuso di finocchio, non necessariamente zuccherato, anzi direi proprio non zuccherato decisamente, in modo che il bambino possa averlo. Si tratta di un minimo di attenzione della mamma. Ritorniamo agli adulti e andiamo a Mauro da Udine, la cui telefonata devo dire che ci aveva molto incuriosito, per questo l'abbiamo scelto fra i tanti che ci stanno chiamando all'800 24 00 24. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo dire che sono stato operato circa 25 anni fa di calcolosi renale. Sì. Da quel momento l'urologo mi ha detto di bere tanto. Sì. Io bevo circa 6 litri di acqua al giorno, e ho una nota, ho sbagliato, io ho detto 6 litri di notte, invece sono 3 litri di notte, e non so se faccio bene, faccio male. Potrebbe fare benissimo, perché se alla fine... uno beve vuol dire che non dorme. Peccato. No, dormo. Però magari si alza e inizia a bersi le sue bottiglie di fianco. Presumo che abbia anche la necessità di far pipì di notte, perché dovrebbe, con una quantità di questo genere, quindi con 6 più 3 fanno 9 litri d'acqua, probabilmente, giustamente come dice Nicoletta, bisogna che dorma anche di notte un po', perché tra bere e andare a fare pipì insomma qualche spunto, che notti agitate, diciamo che ecco, di fronte è una quantità che può essere ancora naturale. L'indicazione è che, ovviamente, quando incontro una persona che beve circa 10 litri d'acqua al giorno, faccio in genere 2-3 esami di valutazione della funzionalità renale, di un possibile sospetto diabete, cioè vanno escluse quelle 2-3 considerazioni. Poi, se siccome esistono nelle statistiche, Deborah, che continua a lavorare sui numeri, sa che esistono anche le code lunghe, no? Quindi non c'è solo la media precisa, ci sono persone che sono un po' all'estremo della statistica della normalità, e quindi una volta che uno controlla 2 dati può essere, in più un dato positivo da quello che ne dice, non ha più riavuto calcoli, quindi in effetti almeno questa parte è stata risolta, anziché avere le sue pipì erano pipì liquide, giusto? Fa bene, non erano a cubetti di porfido che rotolavano. Noi andiamo a sentire che cosa succede. Arriva il nostro... Dove andare in onda il traffico? Stavamo qua appese a questo messaggio. Però, dato che abbiamo 2 libri che ci ha portato il dottor Speciani, certamente, subito dopo le informazioni sul traffico, insieme alla donna di Denari, facciamo, vi diciamo come potete portarveli a casa. Cuore e Denari. Sì. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Fosse papa stare all'or giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, se fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei il capo a tondo, se fosse morte andrei. Abbiamo intavolato una divertentissima discussione sulle proprietà delle ciliegie, non tirerei fuori l'argomento economico perché comunque anche se cominciano ad essere di stagione sono lo stesso abbastanza costose, però insomma dal punto di vista dell'idratazione è un buon frutto, dottor Speciani. Assolutamente, sono piacevoli, buone, ma io quando le persone hanno una ritenzione idrica, uno dei primi spunti è, intanto questo lo possiamo provare tutti, vale per le ciliegie come per le albicocche, di iniziare la mattinata mangiando solo per un pasto ad esempio o delle ciliegie o delle albicocche, questo per capire come l'organismo probabilmente... al posto della colazione sì può essere, uno dice ieri sono stato fuori a cena, una volta ho mangiato la settimana, cosa faccio stamattina? Mangiare fa bene, la prima colazione, però ho bisogno di drenarmi, no? Okay. Allora ecco che una scelta di una prima colazione a base di sola frutta ad esempio, cito specificamente le albicocche e le ciliegie perché sono ricche di potassio e quindi hanno questo tipo di azione cruda, uno si mangia un quantitativo discreto di albicocche o di anche mischiate volendo se uno volesse, e si accorge che dopo un paio d'ore, un'ora inizia ad avere bisogno di far pipì, quindi c'è questa necessità e ci si accorge che parte un'azione di stimolo. Questo è data proprio dalla presenza di acqua fondamentalmente, che è legata, che è un'acqua organica fondamentalmente presente nella frutta e nella verdura e che quindi dà una sorta di apporto. Ricordiamoci che l'acqua è di per sé uno stimolo diuretico, quindi parte. E poi ciliegie. E sì, rispetto a tante ragazze purtroppo che arrivano, che stanno usando in maniera incongrua farmaci specifici semplicemente perché non rinunciano magari ogni tanto a mangiare pizza, cracker e salatini, e vengono e ti rendi conto che stanno usando diuretici, lo vedi dalle analisi delle urine che invece di essere, come le dicevo prima, sono all'opposto, sì, perché l'esame delle urine parla iperdiluito, suggerisco di farsi una bella tisana di peduncoli di ciliegia che sono fantastici, vendono, venduti anche in erboristeria già pronti, ma se noi abbiamo delle buone ciliegie che compriamo le mangiamo e quindi saranno buoni anche i peduncoli. Si prendono i peduncoli, una bella manciata, 30 grammi di peduncoli in infusione per un 10 minuti in acqua bollente, abbiamo una delle tisane da bere poi quando è più fredda, diuretiche più stimolanti e importanti. Una voglia di farsi qualcosa, ecco che dal verduriere senza bisogno di andare in farmacia a prendere strane cose e in modo quindi autocompensativo abbiamo degli elementi per aiutare la diuresi. Nicoletta, mi sono ricordata che in una puntata di Essere Benessere, diciamo vecchie edizioni, vecchio ciclo, un tuo ospite aveva suggerito anche una tisana con delle cipolle. Sì, perché la cipolla è assolutamente diuretica, dove ci sono le cipolle bianche che si cuociono e poi si fanno delle insalate straordinarie. L'acqua di cottura delle cipolle è assolutamente diuretica, e oltre naturalmente alla cipolla. Diciamo che nella cipolla... con un po' di zenzero, assolutamente, tra l'altro suggerisco lo zenzero oggi, una affettatina di zenzero. Zenzero rapido da aggiungere a qualsiasi tisana, ha un'azione stimolante sullo stomaco, un'azione diuretica, antiossidante e positiva. Forse la tisana con i peduncoli di ciliegia è più buona, ma devo dire che anche l'acqua di cottura delle cipolle con una grattatina di zenzero bevuta tiepida non è male. Concordo, tra l'altro sostengo, ma io ricordo ancora il mio papà che diceva, quando le persone improvvisamente vogliono delle cipolle hanno bisogno di magnesio, no? È vero, il magnesio è uno dei prodotti, dei minerali che contrasta il sodio. Dobbiamo sentire i nostri ascoltatori. Bene. Perché voi parlate e loro aspettano. Facciamo Angela, anche il Maria quizzone, Francesca. Dai, fai il quizzone. Allora, donna di denari. Allora, lo lasciamo fare al dottor Speciani. Io posso solo ricordare che chi azzeccherà le risposte a questa domanda si aggiudicherà il libro del dottor Speciani, Come una pentola a pressione. Che cosa chiediamo ai nostri ascoltatori? La domanda è, almeno due dei cibi a più alto naturale contenuto di sale, perché è ovvio, tutti dicono riduciamo il sale eccetera, invece ci sono cibi che mangiamo nel quotidiano che sono ad altissimo contenuto di sale e che meritano quindi un'attenzione. Mandarne almeno i primi due giusti e si vince. invece. Benissimo. 800 24 00 24, quindi la prima telefonata al nostro numero verde, ma dato che ne abbiamo due, io premierei anche chi ci manda la risposta via SMS. Mi sto allargando. No, 349 238 6666, solo due, dai, è facile. Dove andiamo? Bergamo, andiamo Trento? Da Angela, perché tocca anche il tema del diuretico che abbiamo sfiorato poco fa e forse vale la pena approfondire questo argomento. Angela, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, si tratta di mia madre, il telefono per conto terzi. Sì, è una signora della veneranda età di 92 anni che ha dei problemi cardiaci e quindi il suo cardiologo gli ha consigliato un uso comunque a piccole dosi di diuretico, che anche perché ha una pressione tendenzialmente bassa e quindi per non affaticare poi tutte le attività quotidiane che comunque a ritmo ridotto e rallentato dovuto all'età, ecco, quindi non avrebbe problemi rimpiazzare acqua perché fa del movimento. Sì. Quindi la domanda, la domanda è questa. Dal punto di vista appunto del cardiologo dice che l'assunzione di acqua deve essere modesta perché appunto ha questo problema. Però venendo il caldo con la bella stagione è evidente che occorre assumere più acqua, immagino. Sì, è un problema molto frequente negli anziani che spesso bevono troppo poco. Lei troppo voleva poco, sapere se il diuretico va bene o non va bene? In questa stagione calda comunque devo aumentare. È meglio più acqua che non meno. Un anziano, intanto la mamma ha 92 anni, quindi da insegnare lei delle cose sul libro della gente. Di fronte ad un dubbio è meglio avere più acqua dentro che non meno acqua, cioè la disidratazione dell'anziano porta degli scompensi improvvisi acuti, una situazione di aumento di acqua tutt'al più può essere poi vista dal medico e compensata in maniera più tranquilla. Devo dire che con aria condizionata, caldo eccetera, lasci bere la mamma se ha sete in maniera serena e tranquilla. Quindi andiamo a Maria Francesca che ci chiama da Trento. Intanto ci siamo già portate a casa le tisane per oggi e questo consiglio del dottor Speciani di iniziare a volte la mattina al posto della colazione di mangiare solo frutta con un benefico effetto drenante. Andiamo a Maria Francesca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ecco, brave, io chiedevo al dottore per la sudorazione durante la menopausa, questo è un periodo per me molto impegnativo da questo punto di vista, ecco, volevo sapere, questa sudorazione va poi ricompensata, questi liquidi che si perdono, va ricompensata di più rispetto a un soggetto normale oppure... Bella domanda Francesca, grazie. Dottor Speciani, così andiamo Va compensata, sì, è un pochettino di più perché c'è anche il caldo, tra l'altro se lei nell'orto vicino ha della salvia, sono sicuro che un infuso di salvia ha un'azione di contrasto e di miglioramento da questo punto di vista delle classiche sudorazioni menopausali. Vede che oggi abbiamo toccato le ciliegie, la salvia, abbiamo un mucchio di cose interessanti che abbiamo anche a disposizione nei nostri orti o nei nostri giardini. Devo dire che stanno arrivando tantissimi messaggi, ma il primo è di un ascoltatore che ci ha scritto, adesso lo chiediamo, formaggio e prosciutto crudo. Fantastico, bravo. Ecco, e lui 349-238-6666, però non vedo invece telefonate, forse sì. Forse sì, Rita da Roma ci prova. Rita da Roma ci ha provato. Rita, buongiorno, rapidissima, buongiorno. Grazie. Sì. Cosa dice? Prosciutto crudo e ostriche. Però vede, che pietino, è una buon gustaia la signora. Diciamo che parlavo di alimentazione usuale, mi complimento per le ostriche come alimentazione usuale, diciamo che è un ni, nel senso che è vero che il pesce sono salati, ma non così tanto. Non così tanto. Va bene, però, Rita, va bene, un altro libro, però in generale sono pane, cracker, rissini, formaggi, ecco, tutti i prodotti da forno e poi prosciutti e formaggi. Ecco, in questa stagione, se noi in qualche magari un paio di giorni alla settimana cerchiamo di saltare questi prodotti, usare alternative, patatine bollite piuttosto che la pasta stessa, in cui però anziché mettere prosciutti e formaggi si possono mettere verdure e olio, che è un ottimo elemento. Allora, per chi non è riuscito ad entrare in onda, noi siamo sempre aperti, Cuore Denari, scriveteci, perché adesso parliamo di liquidità del nostro Mario Draghi. Mario Draghi ne ha buttata tanta sul mercato, servirà qualcosa, l'euro è sceso, le borse continuano a correre. Se siete interessati a tutti questi argomenti, cominciate a prenotarvi all'800240024. Ci sentiamo subito dopo il giornale radio. E il dottor Speciani corre via, corro, ma ritornerà correndo. Si idrati bene però, non corra troppo e si idrati. Obbedisco. Grazie. Buona giornata, grazie. Buona giornata a tutti. Cuore e denari. In pursuing our price stability mandate today, we decided. Nel perseguire il nostro mandato di stabilità dei prezzi, oggi abbiamo deciso una combinazione di misure per fornire un livello ulteriormente accomodante di politica monetaria e per sostenere i prestiti all'economia reale. Questo pacchetto di misure include un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse. I TLTRO, ossia prestiti a lungo termine alle banche mirati per rilanciare il credito che forniscono a famiglie e imprese, nuove aste di liquidità a lunghissimo termine e misure preparatorie per acquistare gli ABS, cioè titoli garantiti a sostegno delle PMI. Insomma, per qualcuno è un vero e proprio arsenale, anche se il termine non è molto bello. Eccoci tornati a Cuore Denari, lo avete sentito anche in questo passaggio dalle parole di Mario Draghi. La scorsa settimana la Banca Centrale Europea ha preso delle decisioni molto importanti per l'economia dell'Eurozona, decisioni che erano attese ma che comunque hanno una portata enorme per vastità e varietà. L'iniziativa centrale, e anche quella che gli operatori davano per scontata, è stata quella di portare ancora più in basso i tassi di interesse. Erano allo 0,25% e giovedì sono stati portati al minimo storico, allo 0,15. Sono poi state varate anche iniziative di sostegno al credito all'impresa per combattere il pericolo deflazione, per rimettere in carreggiata l'economia che in molti paesi, fra questi l'Italia, è in grande difficoltà. E allora, qualche giorno di distanza dalle decisioni della BCE, una volta che le borse e il mercato obbligazionario hanno digerito le misure di Mario Draghi, cerchiamo di capire a questo punto, cara Nicoletta, come vanno fatte le scelte di risparmio? Già molti ascoltatori si sono messi in coda per chiederci delucidazioni a questo proposito, no? Possiamo già salutarli se vuoi. Certo, abbiamo Eros della provincia di Rimini e poi Angela da Roma, che però ha chiamato per prima, e quindi darei la precedenza subito ad Angela. Esatto, teniamo ancora un po' di suspense sull'ospite che ci accompagnerà in questa parte del nostro programma. Angela, buongiorno. Ah, grazie, buongiorno, io vi ringrazio veramente. Allora, io proprio riferimento a questa nuova proposta di Draghi, no? Che appunto gli interessi sono scesi. Siccome io da molti anni, siccome sono andata in pensione, ho investito la mia pensione, posso dirlo, no? Col conto arancio, che in effetti adesso danno pochissimo. No, l'importante è che non si dicano parolacce, Angela, a Cuore Denari, per il resto si può dire tutto. No, allora vorrei sapere appunto, che è raffinatissima. Ecco, grazie. Allora volevo sapere appunto la nuova proposta, come potrei investire questa mia misera pensione, cioè il mio, ecco, poi volevo sapere un'altra cosa, è considerata rendita questa, perché so che dal 1 luglio aumenteranno anche le tasse sulla rendita. Ecco, volevo sapere se è vero anche questo. Angela, lei tra l'altro ha fatto una cosa che molti hanno fatto negli ultimi anni per proteggersi dalla volatilità dei mercati, per proteggersi anche da questo spread che ha preso il volo, e molti hanno accantonato il proprio risparmio in conti di deposito lì fermi, immobilizzati, e sta lì. Ha fatto la scelta giusta, Angela? Cosa può cambiare in prospettiva? Salutiamo il dottor Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. E allora, prima di commentare le decisioni di Mario Draghi, Ragaini, le chiedo subito se vuole cimentarsi in un commento alla situazione della nostra ascoltatrice, che sicuramente è in buona compagnia, come dicevo prima, relativamente al fatto che ha immobilizzato il suo risparmio, quello con il quale probabilmente dovrà anche gestire i prossimi anni, no? Visto che è pensionata, integrare il suo reddito, ha immobilizzato in un conto di deposito questa somma. Adesso secondo lei è il caso di smontarla? Allora, la partenza è la tassazione, sì, la risposta all'ascoltatrice è: sono considerate rendite finanziarie gli interessi maturati sui conti di deposito e quindi dal 1 luglio saranno assoggettati alla ritenuta del 26%. Poi, come vedremo, la Banca Centrale Europea ha fatto delle manovre importanti, una combinazione di misure, come l'ha definita Mario Draghi, e questo sicuramente porterà a una ulteriore flessione dei tassi e una presumibile riduzione dei conti di deposito, dei tassi applicati ai conti di deposito. Quindi l'idea è che, come dire, come suggeriscono anche molti suoi colleghi, Angela deve cominciare ad accarezzare l'idea di assumersi un pochino di rischio? E diversificare il portafoglio di investimento, la concentrazione anche in una forma che sembra priva di rischio è comunque una concentrazione di rischio. Vedi? La solita parola magica, diversificare. Intanto io chiedo ai nostri ascoltatori, avete del risparmio investito? Pensavate di investire una cifra che avevate messo da parte? Sapete cosa potrà cambiare con queste decisioni? Questo modificherà anche i vostri progetti, come ha modificato quelli di Angela che ci ha chiamato da Roma? 800 24 0024. Dottora Gaini, Cuore e Denari si è presa qualche giorno di tempo prima di commentare le decisioni della Banca Centrale Europea. Abbiamo ritenuto che oggi fosse arrivato il momento giusto per farlo. Le chiedo, dopo aver fatto spiccare il volo alle borse che peraltro continuano a correre, ieri Wall Street nel corso della seduta ha ritoccato nuovi massimi, lo sta rifacendo Francoforte. Dopo appunto questa corsa che sembra non avere fine, quali altri effetti nel breve periodo ci dobbiamo aspettare che ancora non abbiamo visto? L'azione delle banche centrali è sempre stata particolarmente importante, poi dalla crisi del 2008 è diventata ancora più importante con le manovre non convenzionali in parte applicate da Draghi proprio il 5 di giugno. Allora, vi riporto per un secondo con la memoria l'estate del 2012 in cui la situazione nell'area euro era particolarmente tesa e addirittura si aveva il timore che l'euro poi non reggesse gli urti della crisi. Bene, in questa situazione molto fosca, il 26 luglio 2012 il presidente Draghi nel corso di una conferenza a Londra ha pronunciato una frase famosa, è diventata famosa: la Banca Centrale Europea è pronta a fare di tutto whatever it takes. Ecco, è bastata questa promessa, a cui poi sono seguiti giustamente i fatti, per invertire una spirale che sembrava letale. Quindi le parole di Mario Draghi sono sempre molto importanti e arrivano dove alcune importantissime istituzioni europee, Consiglio Europeo, Commissione Europea non riescono ad arrivare. Quindi vengo subito alla tua domanda, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, grazie al taglio dei tassi possiamo aspettarci una crescita del mercato obbligazionario e a un miglioramento del differenziale di rendimento, quindi del famoso spread dei titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona, soprattutto più colpiti dalla crisi, quindi Grecia, Portogallo, Irlanda, ma anche Spagna e Italia. In effetti, se guardiamo cosa è successo allo spread, da giovedì scorso ad oggi è passato da 160 punti base, 160 centesimi, a 135 centesimi. Non dimentichiamoci che all'inizio dell'anno era 212 centesimi e 300 centesimi solo un anno fa. Siamo ai minimi da 3 anni con il livello di questi giorni, sì. Quindi questa è la prima cosa, miglioramento nel mercato obbligazionario. Seconda cosa, grazie all'operazione di finanziamento alle banche finalizzata all'erogazione di credito di cui ha parlato il presidente Draghi, ci potremo aspettare un maggiore credito alle famiglie e alle imprese, quindi auspicabilmente uno stimolo alla ripresa delle attività reali. Ecco, questo è come dire proprio il tema centrale che abbiamo anche sollevato con i nostri ascoltatori, invitandoli nella prima parte del programma a farci le loro domande all'800 24 00 24. Chiaramente è ancora troppo presto per andare in banca e chiedere se appunto questa banca ci finanzia l'acquisto della casa sulla base delle decisioni assunte giovedì dalla Banca Centrale Europea, oppure quanto ci vorrà allora di esatto, tempo? Dottore Ghi. Allora, il tema della maggiore apertura delle banche a ritornare a fare credito è già stata avviata, si vede già negli spread, cioè nel costo che le banche applicano oggi all'erogazione dei nuovi mutui, che è sceso sensibilmente dai momenti più bui della crisi nel luglio del 2012. Quindi l'apertura a erogare maggiore credito c'è e continuerà a esserci. Questi provvedimenti sono volti proprio a far sì che le banche tornino a erogare in modo convinto credito alle famiglie e alle imprese. Quindi, dottor Gaini, se uno dei nostri ascoltatori è andato in banca, gliel'hanno negato 15 giorni fa, lei lo invita a tornare e potrà andare meglio? Allora, è sicuramente importante capire il motivo per cui è stato negato. C'è una regola importantissima nel corso dell'erogazione del credito, che i flussi reddituali futuri del cliente devono essere in grado di ripagare il debito che si va a contrarre. È una regola di gran buon senso, ma è la regola fondamentale. Quindi se il motivo per cui il credito è stato negato è questo, purtroppo non basta tornare in banca se non c'è un cambiamento dell'ambito professionale, lavorativo o del reddito atteso. Se invece la motivazione è legata ad altri fattori, in questo momento eroghiamo un po' poco credito, la domanda è stata presentata ma la risposta non è arrivata, certamente si può provare a resistere. Allora, andiamo nella provincia di Rimini, c'è Eros. Buongiorno. Come mai lo dici con questa perché voce? Ci sono vero Eros, che il suo è un nome molto comune intorno nella provincia di Rimini, vero? È una vecchia storia, sì, è una vecchia storia. Perché? Perché è una vecchia storia? Nel senso che questo nome in questa zona, vabbè, io sono anche abbastanza vecchio, quindi non sono arrivato. Non è il nome, ma non poi, dica così, e poi Eros a me ricorda il grande Eros Ramazzotti, sì, che si è sposato, esatto, in questi giorni. Va bene, comunque, va bene. Chiudiamo l'angolo del gossip, si è chiuso. Eros, andiamo alla domanda finanziaria. Sì, io volevo portare questa testimonianza. Io vi seguo spesso, seguo Deborah, seguo Sebastiano Barisoni. C'è, vi assicuro, c'è una dicotomia, una differenza così grande fra le conseguenze macro delle decisioni dei grandi banchieri, Mario Draghi in testa, e quello che succede invece alla vita di tutti i giorni di noi. Sì, i tempi sono lunghissimi, i tempi di reazione sono lunghissimi e a volte non ci sono. Ottenere il quando si riesce ad ottenere il credito, la banca oggi vuole moltissime più garanzie di quanto non le volesse solo 5-6 anni fa. Quando è costretta ad accettare una pratica, perché bisogna dire così, quindi quando ti ha estorto un'assicurazione che non vorresti fare, quando ha visto che il tuo reddito è da lavoro a tempo indeterminato, insomma ci sono tutte le condizioni, quindi deve darti il credito, lo fa con situazione sofferenza, di costo, col obtorto collo, comunque, ecco, come se facessi una concessione di chissà quale tipo, e te la fa pagare cara. Il credito costa veramente molto molto caro. E le tanto decantate banche locali, le banche di credito cooperativo, quelle attente ai bisogni della gente, sono quelle che si comportano, nella mia esperienza, la mia famiglia, i miei fratelli, le mie sorelle, i miei genitori, nella maniera peggiore. Forse hanno approfittato un po' del fatto di questo grande legame con il territorio, nel momento in cui le altre avevano completamente abbassato la serranda del credito, hanno un pochino fatto leva sul fatto che invece loro forse ne avessero più disponibilità. Detto questo, Eros ha toccato, dottor Ragaini, due aspetti. Le banche, prima che appunto facciano funzionare questa cinghia di trasmissione del credito, anche dopo le iniziative di Mario Draghi, ci mettono un po', l'abbiamo visto già la prima volta. Questa seconda tranche di interventi dovrebbe avere forse tempi diversi. C'è anche da segnalare la seconda questione che volevo appunto ricordare adesso. Chi è caduto? Meno male. Dottor Ragaini ha subito detto io. Esatto. No. Che comunque nella prima parte dell'LTRO, quando la Banca Centrale Europea ha dato grande disponibilità finanziaria alle banche a bassissimi tassi di interesse, le banche hanno usato queste risorse per acquistare i titoli di Stato, perché questo ce lo ricordiamo molto bene. Oggi non c'è più l'emergenza spread, quindi le banche dovrebbero essere più incentivate a dare credito, a far sì che questa cinghia si rimetta a funzionare. Che ne pensa delle osservazioni di Eros? Allora, purtroppo esprimono un disagio del sistema Italia che è innegabile. Non si può pensare che un paese che ha sofferto la crisi più grossa del dopoguerra non abbia portato a casa delle ferite profonde. Ecco, una di queste ferite è il fatto che le banche che fanno come lavoro quello di intermediare i soldi, quindi raccogliere risparmio tra i risparmiatori e impiegarli nelle imprese, facciano fatica a fare il loro lavoro primario, che è proprio quello di erogare soldi a famiglie ed imprese. Questo purtroppo è determinato da una serie di fattori che poi è inutile raccontare, però sappiamo tutti la perdita grossa di soldi che hanno avuto le banche. Le sofferenze sono passate da 40 miliardi di euro nel 2007 a 160 miliardi di euro oggi. Però certamente l'ascoltatore ha perfettamente ragione, c'è stata una difficoltà delle banche a erogare credito perché l'economia ha iniziato a entrare in stallo. Allora, i provvedimenti di Mario Draghi, della Banca Centrale Europea, cercano proprio di rimettere in moto un'economia per evitare che lo stallo diventi poi uno schianto a terra. È quello di iniettare liquidità in forma diversa, quindi lending for money, quindi tu come banca dai credito all'economia, io come banca centrale ti finanzio questo credito che tu fai all'economia. Questo pacchetto di misure che ha annunciato Draghi va proprio in questa direzione. Purtroppo i tempi di trasmissione non sono mai così immediati. Però lui lo sa, perché altrimenti non avrebbe scatenato questo nuovo arsenale, come l'ho definito all'inizio del programma. Volevo fare un commento, dottor Ragaini, anche se so che lei si occupa di altri argomenti nel suo lavoro, sui mutui, perché c'è chi si aspetta con questa nuova riduzione dei tassi di interesse una drastica riduzione della rata del mutuo, se questo è stato sottoscritto con il tasso variabile. Io direi che però non ci possiamo aspettare grandi discese, visto che già l'Euribor, che in genere è il parametro interbancario a cui è agganciato il mutuo a tasso variabile, è già ad un livello molto basso. Probabilmente altre discese sono impensabili. Allora, il tasso Euribor è ai minimi storici, l'avete ricordato, è allo 0,26%, è arrivato allo 0,19%, ma siamo veramente ormai vicini al tetto minimo. L'obiettivo della Banca Centrale Europea è quello di tenere il tasso Euribor a 1 e 3 mesi il più vicino possibile al livello del tasso di sconto, che abbiamo portato, abbiamo detto, allo 0,15%. Quindi grande attenzione a tarare la rata dei mutui su quelli che sono i tassi attuali, perché sono davvero ai minimi storici. Probabilmente ci rimarranno ancora qualche mese, magari anche qualche anno, ma attenzione a tenerci sempre un salvagente di sicurezza per quando i tassi ricominceranno a salire. Ho dato un'occhiata, Nicoletta, alle domande che ci stanno arrivando dagli ascoltatori. Volevo segnalare a Roberto da Brescia, che voleva intervenire sul tema dell'aumento di capitale di Monte dei Paschi, che è complicatissimo, difficilissimo e sta persino bloccando la borsa da 2 giorni, che lo analizzeremo stasera a Focus Economia. Ci sarò io in conduzione, per cui avevo già pensato di analizzare la complicata operazione finanziaria, appunto, che Monte dei Paschi ha messo in piedi. Qualche messaggio che ti interessa, Nicoletta? Allora, un ascoltatore, ma so che ci scrive, non si firma, ha comprato BTP con spread a 5,70, 5 punti, cosa faccio? Vendo? Allora non so se ci sono delle indicazioni che si possono dare a questo ascoltatore, ma sicuramente... Aveva avuto un bello pelo sullo stomaco in quel momento, ha avuto un bel coraggio, direi che forse sarebbe il caso di portare a casa il dottor Ragaini. Io la dico là, così proprio senza peli sulla lingua, che ne dice? Allora, un gergo che si usa tanto è vendi e pentiti. Finanza vale molto. Comunque i titoli di Stato italiani sono cresciuti molto, si sono particolarmente apprezzati. Tanto per dare un numero, il BTP a 10 anni ha un rendimento oggi del 2,70% e rendeva il 4,1% all'inizio dell'anno. Quindi il prezzo del BTP decennale era di 103 all'inizio dell'anno e oggi è 115. Più lunga è la durata dell'investimento, maggiore è questo beneficio sul prezzo. Certo. Allora, quando ci sono questi rialzi così forti, un tema di portare a casa il guadagno è sempre un tema importante da affrontare. Allora, abbiamo 30 secondi di tempo prima di concludere. C'era un'altra osservazione di Sergio che tornava sulla situazione della prima ascoltatrice che ci ha chiamato, dottor Ragaini, perché dice: consigliare ad una pensionata di diversificare 4 soldi in banca non mi sembra molto serio. Noi non abbiamo, mi pare, detto di sottoscrivere 18 prodotti di investimento. Una buona diversificazione per quella cifra là, dottor Ragaini, qual è? Il tema, la diversificazione non ha ambiti di cifre, può essere fatta con i tagli minimi, sono di 1000 euro, quindi un portafoglio di 10.000 euro può essere diversificato bene con 3 strutture di investimento: una che investe a breve termine, sicuramente in ambito obbligazionario, una che investe in ambito di titoli legati all'inflazione, ne avete parlato tante volte, il BTP Italia, e poi anche una piccola parte di investimento azionario in portafoglio con un piano di accumulo che parte da 100 euro al mese può essere fatto. Perfetto. Grazie ad Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti. Ci sentiamo presto. Grazie molte. Buonissima giornata, e noi invece ci sentiamo domani. Eh sì, a me sentono pure stasera, poveri. Fantastico. Poveri ascoltatori. A domani. Presto. Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Vi ha presentato Cuore e Denari.